in primo piano. Martedì 8 febbraio non c'è un'apertura unanime, le scelte sono diversificate da parte dei quotidiani, il Sole 24 Ore apre al via la riforma incentivi e sul rilancio dell'economia che passa domani per questo Consiglio dei Ministri. Offensiva su giustizia e federalismo, questo è il titolo di apertura del Corriere. Per Repubblica, bimbi rom, il dolore di Napolitano, diamo case dignitose ai nomadi. Così anche il Messaggero, rogo di Roma, dolore e rabbia. E il Fatto Quotidiano, quei bimbi bruciati pesano su tutti noi. Questi titoli di aperture. C'è chi, come la Stampa, punta sul federalismo, la Lega rilancia, avanti con le riforme o si vota, mentre per il Giornale, liberi di aggredire il Premier, c'è la foto dei due liberati dopo le tensioni, gli scontri di domenica ad Arcore, i due liberati che brindano, i due liberati con annesse polemiche, anche qui vedremo dopo. Intanto voglio partire da due segnalazioni, la prima devo fare una ripresa della notizia data ieri, che proveniva dalla Svizzera, che è una non notizia o una bufala, molti ce l'hanno segnalata, molti ci hanno detto guardate che è una bufala, non è vero, e oggi sui giornali ci si ritorna. Il Corriere della Sera, la beffa del cane ucciso provoca 700 minacce. Viene da Reconvilier, ieri ne abbiamo parlato, di questo sindaco in Svizzera che avrebbe applicato una tassa del 1908 per la quale i possessori di cani devono pagare un 50 euro all'anno, altrimenti c'è il rischio dell'abbattimento del quadrupede fedele. Ebbene, ieri si è sparsa la notizia che questa uccisione di un quadrupede, di un barboncino, era avvenuta veramente. È una notizia falsa, è una bufala. I cani del Canton Bernese possono stare tranquilli, scrive Alessio Ribaudo sul Corriere a pagina 26. Non verranno abbattuti anche se i proprietari non pagano le tasse. È successo questo al sindaco di Reconvilier, Flavio Torti, imprenditore di 47 anni, che tra l'altro io lo devo dire, ieri l'abbiamo contattato dalla redazione, lo volevo invitare oggi per parlare, ha fatto finta di non sapere, con la nostra Elisabetta Fusconi, l'italiano, il tedesco, il francese e anche l'inglese, insomma, che per uno svizzero obiettivamente era abbastanza improbabile. Ma in questo paesino di poco più di 2000 anime, continua il Corriere della Sera, c'è questa falsa notizia secondo la quale l'uomo avrebbe applicato su un barboncino di 3 anni la legge cantonale del 1904 che prevedeva l'abbattimento nel caso in cui la proprietaria, di origine italiana, non avesse pagato la tassa di proprietà di 50 franchi. Tutto falso, sta di fatto che il sindaco Torti dice non ne posso più, scrive sul sito del comune, non è vero, l'uccisione del cane non c'è mai stata, la padrona non esiste, non so neppure chi sia questa donna italiana, sta di fatto che la bufala è partita e sono arrivate da tutto il mondo, continua ad arrivare minaccia a questo sindaco Flavio Torti di Reconvilier. Se possiamo fare un appello, se qualcuno ci ascolta, cari amanti degli animali, non mandate più mail a questo sindaco perché la notizia è falsa, è una bufala, questa donna che aveva questo barboncino ieri su tutti i giornali non esiste, quindi smettetela, lasciate stare questa cittadina di 2000 anime e il suo sindaco un po' disperato. La seconda notizia che vi segnalo a pagina 16 della Stampa, vince al lotto e salva l'azienda. Avviene in Francia, invece di fare un gesto poco elegante, racconta la Stampa, ma molto espressivo, con l'avambraccio destro alla ditta in cattive acque, questo ex camionista che lavorava per una piccola azienda con una quindicina di dipendenti, conti pesantemente in rosso, ha vinto 10 milioni di euro al lotto francese e che ha fatto? Si è comprato l'azienda. È diventato al 100% président directeur général e ha fatto che cosa? Ha salvato tutti i suoi ex colleghi. Ha detto, ho visto poi il capo, mi faceva pietà e allora gli ho detto, assumo pure te. È geniale questo. Vince al lotto, salva l'azienda. Con 10 milioni di euro ha fatto i suoi investimenti, ho comprato le mie due case, ho chiamato un notaio per gestire tutto il mio patrimonio. Se va male, promette, sono ricco ma non scemo, sono diventato ricco ma non scemo, se va male vendo tutto, però voglio provarci. Invece che tenermi tutti i soldi per me, ha assunto tutti e ha assunto anche il suo ex capo dicendo mi faceva pena. E dopo aver vinto al lotto ha salvato l'azienda. Questo sulla Stampa, pagina 16. La politica riparte con il rilancio del processo breve. Il PDL accelera in aula a marzo, voto ad aprile, così titola pagina 3 il Corriere della Sera. Tra l'altro vi ricordo che alle 8:20 avremo l'onorevole Enrico Costa del PDL, che è il capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera e ha voluto rilanciare, ha detto con una lettera formale oggi, rilancerà la discussione su questo processo breve che era stato per la verità messo in sonno da più di 6 mesi. E poi sul tema l'altro importante è quello del federalismo. Ora ci sono i malumori della Lega, numeri certi o stacchiamo la spina, così Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore, pagina 17, pone l'accento sull'out-out posto da Calderoli. Su che cosa? Cos'è che soprattutto fa arrabbiare i leghisti? Il fatto che debbano essere riequilibrate i numeri nelle commissioni. Sappiamo che nella bicameralina c'è stato il pareggio 15-15, anche perché uno che era stato eletto nella maggioranza, vale a dire Baldassarri, nel frattempo è passato ai Finiani, quando si è creato il gruppo dei Finiani, e quindi Calderoli dice: o vanno riviste le commissioni, la ricomposizione delle commissioni, oppure ecco, sul Sole la mettono stacchiamo la spina. Sulla Padania, vale a dire il quotidiano della Lega, il titolo è Lega coerente, nessun out-out. Come dire, raffreddiamo un po' le polemiche da parte del Padania. Però certo, il federalismo è sempre sotto la lente di ingrandimento per chi si interessa di politica, per capire se la Lega su questo tema è pronta in qualche modo a una frattura abbastanza netta all'interno del governo. Tra l'altro, per quel che riguarda invece retroscena, c'è da registrare quello che riporta il Corriere, l'ha detto ieri in realtà il TG della 7, ed è quello che avrebbe detto Berlusconi. Insomma, il clima è abbastanza teso, l'abbiamo visto anche domenica con gli scontri davanti alla residenza del Presidente del Consiglio. Sappiamo che ci sono varie manifestazioni ed anche della società civile che si sta muovendo. Berlusconi avrebbe detto questo: l'Italia è una catastrofe e rischia una catastrofe come l'Egitto. Lo avrebbe riferito, secondo il TG della 7, Berlusconi sotto forma di sfogo a tavola davanti ai capi di governo dell'Unione Europea, dicendo che ci si occupa dell'Egitto mentre c'è un altro paese nel Mediterraneo che ha grossi problemi, è sull'orlo della catastrofe, cioè quell'Italia dove i giudici vogliono processarlo. Questo è lo sfogo di Berlusconi, anche per il giornale, per la verità, ad Alberto Signora, pagina 7, il titolo è questo: vogliono la guerra civile, ma io tiro dritto e vado avanti. Questo sarebbe stata la posizione di Silvio Berlusconi. E tra l'altro elemento politico, oltre al processo breve, oltre al federalismo, è il rilancio ancora di questo patto che ha fatto già creare qualche mal di pancia all'interno del movimento dei radicali. Berlusconi, c'è un tentativo di trattativa con i radicali, Marco Pannella è tornato in graspolvere in questi giorni, rilascia interviste, oggi ne rilascia un'altra, più che un'intervista, si sa, Pannella non è che fa delle interviste, fa così delle... Ma ve la voglio leggere, a Libero, a Barbara Romano: tratto con Silvio ma non mi vendo. Sentite cosa dice Pannella, eh? Ma è vero che lei sarà lei a scegliere il futuro ministro della giustizia? Se mi fa questa domanda vuol dire che lei è incapace di intendere e di volere. Ammetterà che avete parlato di giustizia con Berlusconi? Lei insiste. Quello che non è chiaro a voi è chiaro a Berlusconi, che sarà corrotto ma non è cretino. Queste sono le risposte di Pannella, eh? Lei ha incontrato almeno 2 volte il Premier. Vi ha offerto che cosa? Lei fa il suo mestiere di giornalista e le esprimo tutta la mia solidarietà. Sempre Pannella. Ma già la sua domanda è figlia di questo regime corrotto e purulento nel quale la menzogna è necessaria perché sopravvivano. Insomma, non risponde a nulla, ma fa così. Ma quindi è possibile l'accordo con Berlusconi? A ridaglie, risponde Pannella. Ma Emma Bonino non è contenta, la saluto. Ecco, queste sono le interviste, le uniche interviste possibili con Marco Pannella. Sta di fatto che secondo il giornale, secondo Alberto Signore, Berlusconi avrebbe messo in campo per trattare con i radicali, e domani credo si vedano con Pannella e Alfano, domani con Berlusconi, avrebbe messo in campo che cosa? Il rinnovo della convenzione per Radio Radicale, che scade a novembre, e sul piatto della bilancia ci sono una decina di milioni di euro. è sempre lì poi il punto. E allora l'altro elemento che ha suscitato polemica, anche fuori riferimento forse alla guerra civile riferita a Berlusconi, è il fatto che ieri sono state scarcerate le due persone che erano state fermate per gli scontri ad Arcore davanti alla residenza del premier. Maroni aveva detto: sono fatti che vanno colpiti, e al processo per direttissima spero che subiscano le persone che hanno aggredito i poliziotti delle condanne esemplari. Risultato: il giudice, fatti non particolarmente gravi, le due persone che sono state fermate sono state rilasciate. Sono Giacomo Sicurello, Simone Cavalcanti, ci sono anche dei profili un po' sui vari giornali. Giacomo Sicurello, 23 anni, figlio dell'ex candidato sindaco di Desio per l'Italia dei Valori, è anche un militante del movimento, è responsabile credo del movimento 5 Stelle di Beppe Grillo a Desio. Poi Simone Cavalcanti, 21 anni, è stato rilasciato anche lui, secondo il giornale, questo è il titolo di apertura, liberi di aggredire il premier. Mentre Repubblica mette in risalto alcune frasi polemiche di alcuni esponenti del PDL, su tutti registro quella dell'onorevole Giancarlo Lehner: a questo punto andrò a tirare sassi con gli amici alla Boccassini o a Bruti Liberati, tanto di certo i magistrati mi rilasceranno dopo pochi minuti. Questo Giancarlo Lehner, onorevole del Popolo della Libertà. Oh, a proposito di manifestazioni, società di civile che si muove, domenica la manifestazione delle donne, lo scorso sabato al Palasciarpa la manifestazione a Milano e poi la domenica le contestazioni. Occhio a quello che c'è in prima pagina oggi sul Foglio, firmato dall'Elefantino Valadie Giuliano Ferrara, che sarà un quotidiano venduto poco, per poche migliaia di copie, ma si sa, tutto quello che fa Ferrara ha un eco abbastanza importante in Italia. E allora, in mutande ma vivi, è ora di smascherare il pulpito indecente da cui predicano i puritani. Giuliano Ferrara lancia una mobilitazione dalle colonne del Foglio. Dicono che il presidente del Consiglio si comporta male, magari non si è comportato meravigliosamente bene in parecchie occasioni, ma è questo il problema? Siamo convinti di no. Scrive Ferrara. Il problema è che vogliono mettergli le mani addosso per evidenti ragioni politiche alimentate da spirito facinoroso, da avversione antropologica a un'Italia popolare rigettata e odiata. Ma non basta, dichiarano di voler andare oltre Berlusconi, bandiscono una crociata puritana in cui arruolano anche i tredicenni, allagano ogni spazio informativo gridando la libertà di stampa conculcata. Spiano, intercettano, guardano dal buco della serratura, stanno inculcando in una generazione di italiani il disprezzo per la politica. Una minoranza etica degna del suo nome dovrebbe sapere distinguere tra conflitti politici e funzionamento delle istituzioni. Questi virtuosi talebani, che rischiano però niente, hanno un mondo da guadagnare, devono essere messi in discussione. Perché non diamo vita a una campagna di passione e denuncia pubblica? Che ne dite? Eccolo qui l'obiettivo. Vi sentite di far parte di una minoranza che non ha niente da insegnare ma non accetta prediche da pulpiti privi di decenza e di senso del limite? Ecco la proposta lanciata da Ferrara. Che ne dite? Perché non diamo vita a una campagna di passione e denuncia pubblica? Chissà dove porterà questo appello. Segnalo nella politica, perché c'è anche questo, l'ennesima giravolta di Luca Barbareschi, che in un'intervista a Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera praticamente la riassumo così: ho scherzato, non lascio Future Libertà, ho fatto tutto per finta, volevo lanciare e fare un grande spot al mio film Il Trasformista, in onda ieri su Rai 3. Quindi ho fatto tutto questo così. Però Gianfranco Fini si deve scusare perché mi ha dato del pagliaccio. Vi siete anche tirati delle penne, racconta Fabrizio Roncone. No, no, questo no. Ve le siete tirati e come? Scusi, ma chi gliel'ha detto? Bocchino? No, perché qui ormai vedo che molti miei colleghi hanno l'abitudine di mandare SMS da sotto il tavolo e farvi la cronaca in diretta di tutte le nostre riunioni più riservate. Insomma, Barbareschi resta. Ho inventato il pasticcio. Ma ora Gianfranco Fini si scusi. C'è ancora dell'inchiesta di Rubi. Gli sviluppi sono che il Fatto Quotidiano si concentra su quello che ieri in realtà ha rivelato il Corriere, cioè che ci sarebbe un'altra minorenne, Iris Berardi, che ha passato una notte ad Arcore, non si sa bene dove, ma il suo cellulare diceva ad Arcore, nella stessa notte in cui c'era anche il Presidente del Consiglio ad Arcore, e per Antonio Massari la ragazza era minorenne, su questo si sta concentrando, cioè per Antonio Massari in quella data la ragazza era minorenne di, e aveva 17 anni, 11 mesi e 2 settimane, per 15 giorni era minorenne. Mentre il nuovo fronte è quello che vede coinvolta Sara Tommasi, la vicenda a Napoli, oggi il Corriere ci ritorna, le inchieste, feste con le ragazze, il caso Tommasi, vertice tra i PM di Napoli e Milano, raccontano Fulvio Bufi e Fiorenza Sarzanini, con anche Sara Tommasi che ha detto questa frase ieri a Un Giorno da Pecora: lo sappiamo tutti che l'Ele Mora portava le ragazze a Berlusconi, come si sa che si ricorre alla prostituzione, questo lavoro è fatto così, e ultimamente ho sempre l'ossessione del ricatto, mi sento sotto persecuzione, quando esco di casa ho paura di bere in qualsiasi bicchiere per paura che ci mettano dentro qualcosa che si ti fa perdere la testa per farti fare delle pazzie sessuali. Al che gli hanno chiesto: ma perché è successa questa cosa? In continuazione. Effettivamente c'è questa intercettazione sulla quale vogliono indagare i magistrati. La stampa la mette così: la Tommasi accusa Mora, drogava le ragazze. Cioè, questo è il titolo, è durissimo. Cioè, di un'intercettazione di Sara Tommasi in passato che diceva: in queste occasioni, in una serata a Milano Marittima, ho fatto delle cose, non sai mai cosa ti mette l'Ele Mora. L'Ele, per la verità, non dice l'Ele Mora. Non sai mai cosa ti mette l'Ele nel bicchiere, ti senti stordita. E qui dunque il nuovo fronte, addirittura titolato così dalla stampa: la Tommasi accusa Mora, drogava le ragazze. Per quel che riguarda l'economia, voglio ricordare appunto che il Sole 24 Ore apre sulla riforma incentivi. Domani il Consiglio dei Ministri, cresce il pacchetto di interventi messi a punto dal governo in vista del Consiglio dei Ministri di domani, scrive il Sole 24 Ore. Già sono annunciate le misure per la crescita dell'economia, con disegni di legge di riforma degli articoli 41, 97 e anche 118 della Costituzione, che riguardano la libertà d'impresa, la meritocrazia nella pubblica amministrazione. Ora arriva anche una nuova riforma degli incentivi con agevolazioni automatiche per gli investimenti delle piccole e medie imprese. Novità anche sul fronte fiscale con le misure antifrode IVA, il diverso meccanismo di deducibilità dell'IRAP a misura di contribuente. Tutte queste novità sono riassunte, ovviamente poi le vedremo, sono anticipazioni, del Sole 24 Ore, da Carmine Fotina e Marco Mobili, a pagina 5. Ecco che cosa contiene il piano per la crescita che domani verrà discusso in Consiglio dei Ministri, con già da dire che alcune cose, come ho detto, verranno discusse, per altre invece ci sarà solo un giro di tavolo, vale a dire l'attuazione del piano del sud, i servizi pubblici locali, il piano casa. In particolare per il mezzogiorno si esaminerà lo sblocco di una prima tranche di fondi da riservare a crediti d'imposta e infrastrutture. Questo però potrebbe essere solo in un primo giro di tavolo, dunque non affrontato direttamente dal Consiglio dei Ministri di domani. Io voglio ricordare il tema del nostro sondaggio, che oggi ha ampio spazio ancora sui giornali, vale a dire la tragedia di 2 giorni fa, 4 bimbi rom bruciati vivi nella loro, non si può definire casa, nella loro catapecchia, in un campo abusivo. Le annesse polemiche, il sindaco Alemanno oggi fa un'intervista, fa intanto una lettera al Messaggero, dicendo: ecco la vera emergenza, servono fondi e poteri speciali. E questo è il tema del nostro fondaggio. Servono davvero fondi e poteri speciali, secondo voi, per affrontare l'emergenza rom? Quei piccoli li ha uccisi la burocrazia. Alemanno a Libero fa un'intervista dove ribadisce questo, cioè la burocrazia, per esempio, se la prende col comune di Ciampino, che ha fatto un ricorso al TAR, oppure 1 anno e 3 mesi in attesa dei veti della sovrintendenza archeologica per sistemare un campo nomadi, significa che i poteri del prefetto si fermano dappertutto. Insomma, un Alemanno che è, per la verità, anche sotto le critiche per quel piano nomadi annunciato, piano Rom annunciato, e che era anche una piattaforma della sua campagna per la quale è stato eletto, e che ora per molti si ritorce contro, nel senso a dire non è stato fatto nulla di concreto. Per esempio Avvenire, a pagina 5, in un editoriale dal titolo "Secondo noi i conti non tornano", scrive così: 2.000, 3 milioni, 4, i conti non tornano, eppure il programma era chiaro fin dall'insediamento della prima giunta Alemanno: smantellare campi abusivi, sostituirli con aree attrezzate, sorvegliate, dotate di servizi, con abitanti censiti per impedire che delinquenti comuni cerchino e trovino rifugio nelle baracche roulotte spuntate negli anni ai bordi o nel cuore delle periferie romane. Quel piano, che adesso anche il Presidente della Repubblica chiede di completare in fretta, è partito senza decollare. Insomma, le critiche anche di Avvenire a dire in realtà non ci sono i fatti concreti. C'è da dire che il Manifesto mette in prima pagina il titolo di questo fiore, messo una gerbera, messo attaccato a una rete, una foto anche molto emblematica, Mamma Roma, questo è il titolo. E il Manifesto dice: dopo il rogo di Roma partono il solito festival delle ipocrisie politiche, effettivamente se ne sono già sentite parecchie, di chi vuole strumentalizzare. E poi però a fianco c'è un editoriale, Alemanno, vattene, questo l'editoriale di prima pagina del Manifesto. E certo, c'è molto anche di speculazione dal punto di vista della politica su questa tragedia, tanto che come al solito il più graffiante, con lui voglio finire, graffiante davvero oggi a Iena, Riccardo Barenghi sulla Stampa, pagina 3, immigrati, espulsi 4 Rom. Ne parleremo alle 8.30 di questo tema, che trovate ancora ampiamente oggi analizzato sui giornali. Voglio andare ad alcune segnalazioni, a cominciare da licei occupati a Milano non è reato. È Luigi Ferrarella che ne parla sul Corriere della Sera a pagina 29. È una sentenza che riguarda l'occupazione del liceo artistico Caravaggio, dove il 18 novembre scorso la dirigente scolastica aveva chiamato il 113 perché diceva c'è in atto un'occupazione di studenti, giovani che non frequentano la scuola, e alcuni sono entrati con il passamontagna, insomma ha chiamato la polizia. Risultato, processo, la scuola appartiene entro certi limiti agli studenti che hanno diritto d'accesso anche fuori dallo stretto orario di lezione, e i giovani che nei giorni dell'approvazione della riforma Gelmini hanno occupato alcuni licei milanesi non hanno commesso il reato di occupazione abusiva delle loro scuole, perché la loro è stata una mera espressione della volontà di dare luogo a una protesta contro una riforma che li coinvolge direttamente. L'importante è che questa espressione di volontà sia esercitata con modalità prive di qualsivoglia connotazione violenta. Così la Procura di Milano, che ha mandato assolti e comunque non ha condannato nessuno. Licei occupati a Milano non è reato. Purché la manifestazione non sia violenta, si può manifestare contro la riforma Gelmini. Salto sulla Stampa, gli ayatollah al bando la pizza. Che c'hanno gli iraniani contro la pizza? Pagina 11. Giordano Stabile: per le severe autorità religiose iraniane sono l'avanguardia delle mollezze delle decadenti società occidentali. Anche se per milioni di giovani iraniani sono un modo semplice e indolore di adeguarsi allo stile di vita moderno, passare una vita tra amici, magari far colpo su una ragazza, eccolo qui. Secondo molti altri no. E allora il presidente dell'emittente statale televisiva IRIB ha bandito tutti i programmi in cui si parla e si insegna a cucinare piatti stranieri. Nemico numero uno, l'avete capito, è la pizza. Difficile capire se la controffensiva culturale riuscirà a stoppare o ridimensionare la mania per la cucina etnica in Iran, perché ovviamente queste cose sono un po' ridicole. Poi la gente, racconta la Stampa, cerca la pizza, la mozzarella, il mascarpone, il camembert, un po' ovunque, ma le autorità religiose, in questo caso no, le autorità dell'emittente statale IRIB, hanno detto basta programmi che fanno vedere trasmissioni in cui si parla di cibo, com'è? Che rischia con le sue mollezze decadenti della società occidentale di corromperci. Bando alla pizza. Vabbè, anche questo succede. Ci dobbiamo fermare con la rassegna stampa. Votate il sondaggio su radio24.it. Parliamo della tragedia con i 4 Rom bruciati vivi, bambini, 2 giorni fa. Ora ci fermiamo per il GR.